La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:30 primi e 37 secondi, siamo in diretta qui dal sud di Milano e come sempre Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, la versione di Oscar sia in diretta che in podcast e vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi perché è una novità della giornata su una sentenza che avrebbe dovuto entrare in vigore lunedì prossimo e questa sentenza assunta al Tribunale Civile di Roma venerdì della settimana scorsa aveva deciso la sospensione con efficacia su tutto il territorio nazionale dei servizi di Uber Black. Vi ricordo che una decisione analoga era stata assunta l'anno scorso dal Tribunale di Milano per Uber Pop. Oggi la novità, ne parleremo, approfondiremo meglio tra pochissimo, è che è arrivata un'ora fa la notizia di un'ordinanza sospensiva. Ordinanza sospensiva quindi da lunedì e fino all'esame dell'impugnativa nei confronti dell'ordinanza presentata da Uber. Uber continuerà i suoi servizi, quindi per tutti i suoi utilizzatori da lunedì non finisce Uber per effetto dell'ordinanza che doveva entrare in vigore lunedì. Vedremo le conseguenze di questo, parleremo soprattutto della sentenza del Tribunale Civile, la leggeremo insieme per così dire. Nel frattempo naturalmente tutti coloro comunque la pensino a favore o contro, chiamateci all'800 24 00 24. Volevo semplicemente dirvi, senza volervi allarmare per questo, che ci sono preoccupanti complicazioni in corso sulla scena internazionale per la vicenda che riguarda la Corea del Nord, nel senso che la decisione di Air China, cioè della compagnia di volo ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, di sospendere i voli Pechino-Pyongyang è da tutti interpretata come una decisione cautelare in vista della possibilità tra oggi, domani, insomma nel prossimo immediato futuro, di azioni militari. Ecco, la Corea del Nord ha emesso dichiarazioni in cui si dice pronti alla guerra e la stessa Cina ha avvertito il conflitto può scoppiare in ogni momento. Mosca a propria volta ha aggiunto: siamo molto preoccupati dai segnali che raccogliamo, serve moderazione. Ecco, sto scandendo le parole, le trovate se andate sul sito di Repubblica, è l'apertura del sito di Repubblica, non voglio allarmare nessuno. Sapete tutti, o comunque se non lo sapete, c'è una task force con la portiere Carl Vinson che è a largo delle acque della Corea del Sud, salpata da Singapore l'8 aprile scorso. In tutti questi giorni, fin da quando sabato della settimana scorsa furono lanciati 59 cruise dall'amministrazione americana e furono lanciati mentre Xi Jinping, il leader della Cina, era ospite a Mar-a-Lago nella residenza personale privata del presidente Trump, e da quel momento l'amministrazione americana e la leadership cinese si è confrontata intorno al tema della Corea del Nord, perché il giudizio degli americani e la produzione da parte dell'intelligence americana delle prove, a quanto pare raccolte dall'intelligence della Corea del Sud, recuperando parti di un vettore missilistico della Corea del Nord che testimonierebbero come la componentistica di questi missili è in realtà cinese ed è moderna, che significa che la Cina continua quindi a dare una mano agli sforzi di potenziamento dell'arsenale missilistico della Corea del Nord. Tutto questo poi ha portato l'amministrazione americana intanto a spostare una potente task force navale a largo della Corea del Nord, e l'amministrazione americana più volte in questa settimana ha detto: noi abbiamo chiesto alla Cina di pensarci loro per moderare la Corea del Nord, altrimenti facciamo da soli. Ecco, io vi ho dato questa informativa solo per obbligo giornalistico, perché la cosa è di una certa significativa rilevanza, soprattutto, ripeto, la decisione di Air China di sospendere i voli Pechino-Pyongyang. Speriamo di non dover passare tutti quanti una Pasqua funestata da avvenimenti che, vista la posizione della regione della Corea del Nord, potrebbero avere escalation e reazioni purtroppo difficilmente, non dico controllabili, ma persino impensabili. Speriamo di no, e siccome solo questo sappiamo fino a questo momento, noi vi teniamo informati come Radio 24 sugli sviluppi, ma andiamo, sia pure, certo, sono eventi di portata, lo comprenderete, che mettono in imbarazzo lo stesso conduttore, mischiare un avviso di questo tipo con l'argomento della trasmissione. Però naturalmente noi serviamo voi, seguendo la cronaca di oggi, ve l'ho detto, è questa sospensiva che ha accolto le richieste di Uber di non adempiere all'ordinanza assunta al Tribunale Civile di Roma la settimana scorsa, fino alla settimana scorsa, secondo la quale da lunedì prossimo, lunedì di Pasquetta, doveva, sottolineo, doveva cessare tutto il servizio di Uber Black sul territorio nazionale. E la decisione dell'accoglimento della sospensiva è venuta da Uber Italia un'ora e qualcosa fa, e naturalmente l'azienda è molto felice, e quindi si potrà continuare a utilizzare l'applicazione di Uber fino alla pronuncia del tribunale sul reclamo. Tenete conto che stiamo parlando, vediamo quante settimane saranno, perché la prima udienza è con l'impugnativa di Uber contro la decisione del Tribunale Civile è prevista per il 5 maggio, e quindi passerà qualche settimana. Diciamo che entro giugno dovremmo sapere qual è il giudizio, se verrà confermato la negazione assoluta della prestazione del servizio di Uber Black in Italia oppure no. Non è invece in discussione la permanenza del servizio in Italia di Uber Eats. Che cos'è Uber Eats? È quella per le consegne di cibo, che è partita qua a Milano lo scorso ottobre. Invece il Tribunale Civile di Roma, venerdì della settimana scorsa, aveva accolto, era il 7 aprile, un ricorso dei tassisti, e lo aveva fatto in base alla legge in vigore, la legge 21 del 1992, modificata nel 2008, quella che regolamenta l'attività di noleggio con conducente e i taxi. Allora, per capire bene, perché è molto interessante, dopo aver esaminato bene quella sentenza del Tribunale Civile di Roma, capire su che base quella decisione era stata assunta, anche se adesso, a fini cautelari, ne è stata sospesa, ma solo sospesa, la decisione di proibire Uber. Allora, lo facciamo con il vice direttore generale, anzi la vice direttrice generale dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni. Grazie di essere con noi, Serena. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, per fortuna c'è stata questa sospensiva, o no? Sì, per fortuna, non soltanto per Uber e per chi prende utilizza Uber, ma per tutti gli NCC, perché è vero che la sospensiva sospendeva appunto il servizio di Uber, ma quello che c'era scritto non vale e non sarebbe valso solo per Uber, ma fondamentalmente per tutti i noleggiatori con conducente, per tutti gli NCC, perché fondamentalmente dice che l'attività di noleggio con conducente fa concorrenza sleale, pur facendola nel rispetto della legge. Vogliamo spiegarla un pochino in dettaglio questa sentenza, sì, perché tu te la sei studiata, perché ovviamente i giornali sono andati come sempre un po' grossier alla sostanza, hanno detto la decisione niente più Uber Black in Italia. Invece tu dici no, qui c'è un problema che riguardava anche gli NCC, la legge del 1992 disciplinava appunto quelle due categorie, i taxi e gli NCC. All'epoca non esistevano le app, stiamo parlando della preistoria dal punto di vista dell'offerta tecnologica, per come si è evoluta. Però la sentenza, per come arrivava a giudicare, tra virgolette, la sleale concorrenza? Allora, ci sono due profili diversi molto interessanti di questa ordinanza che appunto la rendono in realtà estendibile a tutti gli NCC. Il primo è l'interpretazione che fa il giudice della legge del 92. Noi siamo in una situazione normativa abbastanza confusa. Abbiamo una legge del 92 che è stata modificata nel 2008, le modifiche del 2008 di fatto non sono mai entrate in vigore perché l'efficacia è stata sempre prorogata. Anche ora che stiamo parlando siamo sotto la proroga delle modifiche del 2008, quindi vige ancora la legislazione originaria del 92. E aspetta, ti interrompo per ricordare e dare atto ai tassisti in ascolto, ovviamente, che contro questo continuo regime di proroga dell'entrata in vigore della modifica fatta nel 2008 alla legge del 1992, stufi delle continue proroghe, per questo i tassisti hanno proclamato lo sciopero duro, richiamando dal loro punto di vista il governo ad assumere una decisione in relazione a questo. Il governo ricevette dicendo prendiamo l'impegno di una normativa complessiva eccetera eccetera, e lì naturalmente poi siamo rimasti fermi. Siamo a 15 proroghe, per darvi un'idea. 15 volte la legge del 2000, la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche del 2008 è stata appunto prorogata, quindi dice, l'incertezza pesa sugli NCC e insomma, pesa anche sui la politica, diciamo, non ha le idee chiare. Io poi mi limito per il momento a dire questo, poi dico meglio come la penso, però non ha le idee chiare. E allora in questa situazione normativa il giudice in base a cosa decide? Ecco, il primo punto è che il giudice interpreta la legge del 92 come se fossero in vigore le modifiche del 2008. Che non sono mai entrate in vigore. Che non sono mai entrate in vigore, per cui ad esempio chiede che pretende che l'NCC torni in rimessa, o la richiesta di NCC parta nel comune in cui si è chiesta l'autorizzazione a condurre da parte dell'autista. Sono dettagli che renderebbero più limitante l'attività di un NCC, ma sono dettagli che al momento non sono in vigore. Il giudice sa benissimo che la legge del 2008 non è ancora efficace, però interpreta la precedente, che al momento è efficace, come se fosse, la interpreta aggiungendo qualcosa in più, che è proprio quello che è stato detto nel 2008, ma che ancora non è efficace. Questo è una prima questione di diritto molto interessante. Cioè, è ovvio che si deve applicare la legge del 2008, si deve applicare la legge del 92, però la legge, come dire, con un, si passa il termine, pregiudizio, dato dalle modifiche che dovrebbero in teoria essere già in vigore. E queste due modifiche, le principali, sono appunto la territorialità dell'ambito da cui proviene la richiesta di servizio coincidente con quella dell'autorità di rilascio della licenza NCC, e la seconda cosa, il famoso ritorno in rimessa prima di partire con un nuovo servizio, quindi non utilizzate telefoni cellulari per un nuovo cliente, in parole povere. Quindi quando effettivamente la legge del 92 dice che la richiesta va effettuata alla sede del vettore, viene in questa ordinanza inteso come un obbligo di tornare a rimessa. In realtà non è necessario. Tutti gli NCC oggi, ma anche le cooperative di taxi, hanno un sito internet e hanno una radio taxi. Quando parte la richiesta via telefono o via app, la si manda appunto al centralino software o telefonico di smistamento. Quella è una sede del vettore, non è necessario che sia l'obbligo di tornare alla rimessa. Il giudice la interpreta così perché in realtà appunto così la voleva quella modifica del 2008, che però non è mai entrata in vigore. C'è quindi una lettura. Ma quindi paradossalmente la sentenza si potrebbe applicare anche ai radiotaxi? La sentenza si applica, no, perché si applica agli NCC, però si può, e questo è il punto, si può applicare a tutti gli NCC, cioè a tutti quelli che, non soltanto Uber, che fa disintermediazione, che mette in contatto l'autista con l'utente, ma anche a una cooperativa di 5 NCC che hanno un sito internet. Semplicemente, per cui la richiesta si avanza mandando una mail, un SMS al centro di smistamento, che è di proprietà stessa dell'NCC, mentre Uber è un intermediario. Certo. Stiamo parlando di una platea di destinatari potenzialmente molto più ampia, cioè di decine di migliaia di NCC in tutta Italia. Ma il punto più interessante per capire appunto, per domandarsi come il giudice, cioè con quali occhi il giudice abbia voluto guardare a questa realtà, è quando dice che, ed è questo il punto per cui sospende l'attività di Uber, è quando dice che la concorrenza, cioè che Uber fa, i suoi autisti fanno concorrenza sleale perché sfruttano una posizione di indebito vantaggio rispetto ai concorrenti, semplicemente perché possono contrattare la tariffa con il cliente. Allora, mentre i tassisti no, hanno perché c'è una tariffa amministrata. Allora, ci fermiamo qua, perché c'è un minuto di traffico. Questo punto è fondamentale, cari ascoltatori, perché la questione è: il giudice lo capisce che stiamo parlando di due servizi le cui condizioni di domanda e di offerta sono radicalmente diverse? Adottando il criterio della sleale concorrenza, la risposta è no. Il giudice assimila servizi offerti e domandati in maniera diversa. Una delle caratteristiche, ma solo una delle caratteristiche della diversità, è proprio la regolamentazione dell'offerta, che nel caso dei taxi è chiusa per numero, il numero delle licenze, ed è vincolata dal fatto che la tariffa è amministrata. Mentre nel caso di Uber ovviamente non è un'offerta chiusa da numero di licenze e la tariffa è contrattata. La tariffa è parte di una caratteristica dell'offerta strutturalmente diversa da quella dell'offerta di quello che è un segmento dell'offerta di trasporto pubblico, sia pure con sentenze che interpretano cosa voglia dire per i taxi essere trasporto pubblico, abbiamo più volte parlato, mentre invece quella caratteristica della tariffa liberamente contrattata diversifica in maniera strutturale sia l'offerta che propone al cliente una tariffa variabile, sia il cliente che la domanda sapendo consapevolmente che può variare rispetto ai punti di picco e all'offerta in quel momento incrociata rispetto al volume della domanda e al valore che la domanda è disposto a sottoscrivere. Quindi questa faccenda ha la sua importanza perché testimonia, a seconda della risposta del giudice, se il giudice capisce che sono due servizi diversi oppure no. Sentiamo come ci risponderà, avendo studiato la sentenza, Serena Sirino tra un minuto. Intanto traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. La versione di Oscar. Allora, stiamo parlando, cari ascoltatori, siamo tornati in diretta con Serena Sileoni, vice direttore generale dell'IBL. Oggi è arrivata la sospensiva dell'esecutività da lunedì prossimo, che però era stata decisa dal Tribunale Civile di Roma, e la fine del servizio Uber Black in tutta Italia. E siamo arrivati a questo punto, dopo aver visto che la sentenza era data dal giudice sull'idea che la legge del 92 valga anche con le modifiche del 2008, che però non sono mai entrate in vigore. Già questo è singolare. Ma poi va a un punto, la sleale concorrenza, e dice che Serena Sileoni stava dicendo la sleale concorrenza è perché hanno la tariffa libera. Ma questa è la diversità tra due servizi diversi, oppure il giudice crede che siano uguali, Serena? Il giudice crede che siano uguali perché si rivolgono alla stessa utenza e perché fanno tutti e due servizio pubblico non di linea. Fanno tutti e due servizio pubblico non di linea, cioè la legge dice che tutti e due svolgono un'attività di trasporto delle persone non di linea, nel senso non autobus, non tram o treni locali. Sono però due attività completamente diverse, ma perché la legge le disciplina in maniera diversa. Ed è la legge che dice che i taxi hanno una tariffa predeterminata e gli NCC invece hanno un costo che può essere contrattato con il singolo cliente. Come può il magistrato, scusami, ignorarlo? questa è la domanda, questa è la seconda grande curiosità di questa ordinanza, che è molto interessante non tanto e non solo perché riguarda Uber, che è un servizio che ormai è entrato nella vita delle persone che vivono nelle grandi città, ma perché appunto riguarda in realtà tutti gli NCC. Tutti gli NCC a questo punto fanno concorrenza sleale ai taxi e lo fanno perché rispettano le leggi. Vabbè, naturalmente, cioè, io ti posso giurare questo, che molti ascoltatori dicono: non è vero, state raccontando frottole, perché figuriamoci se un magistrato è così matto. E se la leggano, se volete, io leggo questo passo soltanto. Rispetto all'attività concorrenziale, risulta sleale, tralascio i vari incisi, rispetto al servizio di taxi, non dovendo soggiacere a tariffe predeterminate dalle competenti autorità amministrative. È vero che lo fanno, ma è proprio quello che dice la legge. Al taxi si applica la tariffa predeterminata dalle autorità amministrative, agli NCC no, si applica una tariffa risultante dalla negoziazione tra le parti. Cari ascoltatori, io vi posso garantire, l'abbiamo letta anche noi, è così. Possiamo vivere in un paese nel quale c'è un giudice che sospende il servizio di Uber? Lasciate perdere come se tifate per gli uni e per gli altri. Io non sto tifando per nessuno. Il giudice parte dal presupposto che sono vigenti testi che non sono mai entrati in vigore, cioè quelli del 2008, che sono quelli la cui vigenza è richiesta dai tassisti, ma i tassisti non avrebbero scioperato se non fossero vigenti, come invece il giudice parte dal presupposto che siano. Secondo, il giudice dice: la legge prescrive che le tariffe sono contrattabili NCC e quelle di taxi amministrate. No, sleale concorrenza, ma è la legge che lo prescrive, benedetto iddio. Ecco, viviamo in un paese in cui un magistrato può emettere ordinanze di questo tipo. Allora, è ovvio che Uber impugna. Adesso, per fortuna, lo dico per fortuna, vista gli argomenti giuridici svolti nella sentenza, vedremo la sospensiva, vedremo se l'effetto è quello, se viene confermato di fronte all'impugnativa di Uber. Ma ripeto, noi non stiamo tifando contro i tassisti. Adesso, io ringrazio Ignazio Leoni, ci sono delle telefonate, ci voleva una trasmissione di un'ora, lo so che non tanta, però intanto iniziamo con le telefonate. Claudio, da Roma. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Guarda, il discorso è molto semplice. Il servizio Uber è completamente illegale. Non ci sono altre storie. La legge dice che bisogna chiamare la rimessa. Dalla rimessa parte la macchina per fare il servizio. Perché se no sarebbero due servizi da piazza. Uno con delle regole e un altro senza regole. Non è che ci sono altre, Claudio, cose da io lo so, ne ho dato atto che questa è la posizione dei tassisti, che ha chiesto al governo dopo 15 proroghe: dovete fare chiarezza, quelle modifiche entrano in vigore o no? Fino a questo momento il governo ve l'ha promesso, non ha prodotto ancora una soluzione, ma non sono entrate in vigore, questo è il punto. E questo riguarda la prima parte del fondamento della sentenza. La seconda, quella sul fatto che si contesta sleale concorrenza perché voi avete tariffe amministrate che subite, è così, fa parte dell'offerta, mentre gli altri invece no, beh, quello sta scritto già nella legge che non è così. Però, per dire, Claudio, io sono il primo a riconoscere che vi siete rotti le scatole di fronte al fatto che la politica adotta modifiche che dal 2008 poi non entrano in vigore e proroga. Quindi non si discute sul fatto che bisogna adottare una regolamentazione. Voi siete, giustamente dite, beh, ma quelle modifiche dicevano che dovevano rientrare. E allora, ok, però il problema normativo è che non sono vigenti. Cesare e tutti gli altri che hanno telefonato, purtroppo non abbiamo tempo. Ci torneremo domani su questo punto ai conti della beffa. Vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12. Parleremo soprattutto del DEF, delle misure fiscali adottate col decreto che è in arrivo. Oimè, ci sono delle strette e come, altro che non si alzano le tasse. Quindi torneremo anche su questo punto. Appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12 con me, Carnevale Caffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Continuate su Radio 24 e speriamo in un weekend di pace, però, santo Dio.